Letture di Radio 24. C'è chi la ama e chi la detesta. È la musica per ambienti che molti chiamano, non senza una punta di disprezzo, musica per ascensori. In inglese è nota con il termine music, parola che viene ormai usata per indicare ogni genere di musica strumentale disimpegnata. Il nome, però, trae le sue origini dall'omonima azienda, fondata nel 1934 da un generale americano, e che ha avuto il suo momento di maggior successo quando si è scoperto che un certo genere di musica trasmesso negli ambienti di lavoro riusciva ad aumentare la produttività. L'anno 1934 è stato tragico per la musica. E non solo perché in quell'anno sono morti Elgar, Delius e Holst, ma anche perché segna la nascita della music, quella con la M maiuscola. Scritta con la M minuscola, la parola music sta ad indicare il genere di musica da sottofondo che si sente nei negozi o negli ascensori. Ma music con la M maiuscola è il nome dell'azienda fondata nel 1934 da George Owen Squire, un generale maggiore statunitense che nel tempo libero sperimentava con il multiplexing, una delle meraviglie dell'età moderna che permetteva di trasmettere più segnali elettrici con un solo cavo. Prima di lanciare la sua compagnia, Squire utilizzava la rete elettrica per inviare 3 canali di musica registrata direttamente nelle case o negli esercizi commerciali. I suoi clienti pagavano il servizio direttamente in bolletta. Per un po' di tempo questo servizio ebbe la meglio sulla radio, ma poi, con la diffusione delle radio senza fili e l'espansione dei contenuti, il pubblico perse interesse per la diffusione via cavo. Per non rischiare di essere messo da parte, nel 1934 il generale maggiore iniziò a mettere sotto contratto delle orchestre per produrre registrazioni esclusive di brani popolari che solo i suoi clienti avrebbero potuto ascoltare. Cambiò il nome del servizio in Music, una combinazione tra Music e Kodak, l'azienda fotografica che lui amava molto. Purtroppo, l'intraprendente Squire morì nello stesso anno di Elgar, ma a sorpresa il suo sogno di musica diffusa via cavo gli sopravvisse e la Music spopolò nei ristoranti e hotel di New York, offrendo un'ampia scelta di musica senza jingle pubblicitari e senza DJ che parlassero. Fu però nel 1936 che la music divenne adulta, grazie all'idea che la musica avrebbe potuto aumentare la produttività dei lavoratori. Si iniziarono a programmare delle sequenze di 15 minuti di musica in grado di far sentire a proprio agio i lavoratori, di liberarli dallo stress, di metterli di buon umore, aumentando al tempo stesso la produttività. Il progetto aveva bisogno di un nome pseudoscientifico, e nel 1940 la compagnia decise di chiamarlo progressione dello stimolo. Sia i capi che i lavoratori stessi mostrarono gli effetti benefici del progetto in termini di produttività e in poco tempo gli Stati Uniti iniziarono a lavorare e a fare acquisti a ritmo di music, quando questa cominciò a diffondersi anche nei negozi. Il colpo da maestro dell'azienda fu quello di volere a tutti i costi che le musiche dei vari segmenti venissero composte, arrangiate e suonate appositamente. Una scelta determinante fu quella di eseguire i brani in modo molto blando, per evitare di interrompere un'attività che veniva svolta in modo meccanico e ripetitivo. Fu così che nacquero le sonorità che oggi sono chiamate music. Ben presto il pubblico richiese music anche da ascoltare a casa, musica che si potesse ascoltare senza troppo impegno, mentre ci si dedicava al giardinaggio, alle riparazioni domestiche, alla cucina o all'aperitivo con gli amici. E così nasce la music, una parola che definisce quella melassa sonora che lascia alcuni rilassati e altri stressati al limite dell'infarto miocardico. Con l'arrivo del pop negli anni 60 e 70, la music iniziò orgogliosamente a uscire dall'ombra. In pochissimo tempo, la music, con la M maiuscola, con i suoi discutibili principi scientifici, si trasformò nella music con la M minuscola, priva del tutto di principi. La compagnia che un tempo aveva tracciato la strada per i moderni servizi di streaming, come Spotify, fallì nel 2009. Nel 2011 fu rilevata dalla Mood Media, che decise di sbarazzarsi del marchio music, ormai diventato tossico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di John Evans, Music for a While, dal numero di maggio della rivista BBC Music Magazine. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani, oppure mai. Pezzi di Vita Tour, dal 18 aprile, nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. Letture di Radio 24. Accusiamo i piccoli imprenditori di evadere le tasse, ma spesso i furbetti siamo proprio noi, scrive Giacomo Susca a commento di un'inchiesta sull'evasione pubblicata nei giorni scorsi sul Giornale. Sono peccati veniali che però al fisco costano miliardi, continua Susca, e nella top 10 delle piccole evasioni figurano ripetizioni scolastiche, badanti, babysitter, golf e idraulici. Si tratta di abitudini talmente diffuse da essere ormai accettate o considerate inevitabili, al punto che fa più notizia trovare qualcuno di onesto. Ma come scovarlo? Ci pensa l'onestometro, una specie di TripAdvisor per commercianti e professionisti. Nell'Italia di chi si arrangia e ne inventa di tutti i colori per gabbare il fisco, succede che il concetto di normalità si inverte. E allora, per tanti cittadini, oggi fa quasi più notizia imbattersi in un commerciante, un elettricista o un dentista che emette scontrino e rilascia regolare fattura, senza dover espressamente chiedere, sia chiaro. Evasori.info è un progetto non profit nato nel 2008 dall'idea di sfruttare il web come una piattaforma per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'evasione fiscale. Sul sito hanno preso piede due nuovi strumenti, Onestometro e Bollino degli Onesti. Proprio così, conferma la portavoce Patrizia Chiaromonte. Le segnalazioni degli onesti cominciano a crescere. Ci sono già oltre 1.500 esercenti e professionisti nel nostro database e speriamo di raggiungere presto la massa critica necessaria per rendere questo servizio utile ai consumatori. Il bollino degli onesti, spiega Ace, pseudonimo di un professore di informatica che ha creato evasori.info e che preferisce mantenere l'anonimato per ragioni di privacy, è una piattaforma sulla falsariga dei sistemi come Foursquare e TripAdvisor, che permette di segnalare e pubblicizzare esercenti e professionisti che emettono regolare scontrino o ricevuta fiscale. I cittadini possono individuare, creare e mappare le attività commerciali e misurarne l'onestà con un indice chiamato onestometro. Basta un tap sullo smartphone. Gli esercenti possono consultare, stampare ed esporre il loro bollino degli onesti, un codice QR che facilita il monitoraggio dei loro comportamenti. L'obiettivo è innescare un circolo virtuoso, riassume Ace. Gli italiani, insomma, stavolta col proprio voto, intendono premiare chi, come è giusto e naturale che sia, svolge il proprio lavoro nel rispetto delle leggi e del prossimo. Eppure, continuano a piovere i warning contro i soliti furbetti, che rappresentano pur sempre la maggioranza dei contributi da parte degli utenti. Ogni giorno riceviamo centinaia, alcuni giorni migliaia di segnalazioni. In pochi anni, i cittadini hanno segnalato più di 1.150.000 episodi di evasione, per un totale di oltre 175 milioni di euro non dichiarati al fisco. In aggregato, le categorie peggiori sono medici e dentisti, ristoranti, agenzie immobiliari e seguono i bar. Poi vengono gli altri servizi per la persona, come i parrucchieri, i costruttori e gli affitti in nero. A chi accusa di incentivare la delazione e di favorire un clima ingiustificato di caccia alle streghe fiscale, il team di evasori.info replica: ridicolo, non è possibile individuare nessun evasore, solo la zona e non la posizione precisa dell'evasione viene registrata. L'anonimato, sia per chi segnala che per chi viene segnalato, è essenziale per scongiurare abusi, per esempio denunce false a scopo di diffamazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giacomo Susca con l'onestometro I cittadini votano chi paga le tasse, dal Giornale del 20 aprile. Il 27 aprile del 1945 Benito Mussolini viene fermato dai partigiani a Dongo, un piccolo paese sulla sponda occidentale del lago di Como, mentre sta cercando di fuggire verso la Svizzera. Su una delle auto al suo seguito ci sono 6 valigie che contengono banconote, oro e beni preziosi. È il cosiddetto tesoro di Dongo, il cui ammontare esatto non è mai stato stabilito. C'è chi parla di 8 miliardi di lire, c'è chi invece lo quantifica in 200 milioni più 66 kg di oro. Quello che è certo è che il tesoro sparisce e ancora oggi, dopo molti processi, non si sa con certezza che fine abbia fatto. E quelli che sapevano qualcosa sono stati eliminati. È il caso, ad esempio, di 2 partigiani. Luigi Canali, detto Capitano Neri, capo di Stato Maggiore della 52esima Brigata Garibaldi, e della sua fidanzata Giuseppina Tuissi, detta la Gianna. Mentre i fascisti venivano fatti prigionieri, alcuni partigiani approfittano della situazione per razziare le auto rimaste incustodite. Per cercare di contenere il saccheggio, il Neri ordina di portare le valigie al municipio di Dongo, dove la Gian fa l'inventario di quel tesoro. Nei giorni successivi avviene una discussione tra il segretario del Partito Comunista di Como, Dante Gorreri, che sostiene che quei beni appartengono al partito, e il Neri, che afferma invece che il tesoro appartiene allo Stato e va consegnato alla Banca d'Italia. Il 28 maggio del 45 il capitano Neri scompare e il suo corpo non verrà mai più ritrovato. La Gianna inizia subito a cercare notizie di lui, partendo dal Lungolago, nei luoghi della resistenza della 52esima brigata. Ma dal 23 giugno anche di lei si perdono le tracce. Una ricostruzione di ciò che accadde viene fatta da Pedro, che quel giorno incontra casualmente la Gianna sul Lungolago. «Incontrai Gianna a Laglio Brienno», ricorda Pietro. «Andavamo in moto io e il patrigno Renzo, lui guidava. Io ero seduto dietro. Lei veniva giù in bicicletta mentre noi risalivamo da Como verso Dongo. Fu la Gianna a riconoscerci. I tre si fermano. La ragazza parla di ciò che sta cercando. Bellini delle Stelle, Pedro, cerca di rassicurarla. In quel momento arriva una motocicletta che proveniva da Dongo e praticamente seguiva la Gianna. È scesa una compagna, la Mariuccia Terzi, sorella di Francesco, mentre quello che guidava è rimasto sulla moto. Non lo conoscevo, ma era un tipo un po' biondo, alto, che in un primo momento credevo corrispondesse a un certo Haas, ma che poi non era questi. La Mariuccia è venuta vicino a noi, ha fatto un sacco di feste alla Gianna». Pedro saluta le due ragazze e prosegue verso Dongo. La Gianna era rimasta lì con la Mariuccia e da quel momento non si sa niente di certo. Da quello che si era detto subito dopo, i due in moto avevano proseguito verso Como, mentre la Gianna aveva ripreso la bicicletta nella stessa direzione. Poi sembra che sia arrivato qualcuno in macchina a prendere la ragazza. Una testimonianza indiretta viene da Alessandro Viazzi, un comasco amico della famiglia Canali, che riferisce un episodio inquietante capitato lo stesso 23 giugno, quando scompare la Gianna. Il mio collega Atos della Torre mi raccontò che il sabato precedente si trovava con la fidanzata sulla strada del Lungolago a passeggiare. A un certo punto si erano appartati in una posizione sopraelevata rispetto alla strada per prendere il fresco. Poco dopo arrivò una moto rossa montata da 2 persone che avevano in mezzo una donna. Si capiva che era una donna dal fatto che aveva le gambe mezze scoperte e bianche. La moto si fermò. I tre smontarono e scesero per una scaletta verso il lago. Il mio collega pensò a un intrigo amoroso. Poi sentì un urlo seguito da uno sparo. Della Torre rimase fermo immobile perché la fidanzata si era spaventata e non era bene essere testimoni di certe cose. Quindi risalirono dal lago soltanto i 2 uomini che, rimontati sulla moto, ripartirono veloci verso Como. Passò qualche tempo. Intanto era sceso il buio. Allora Della Torre scese anche lui la scaletta e accese un cerino per vedere cosa c'era, ma scorse soltanto per terra un foglio di giornale insanguinato. Pochi dubbi che la ragazza in questione sia la Gianna. La versione più probabile, anche alla luce di quanto succede nei giorni successivi, è che Gianna venga trasferita in auto a Villa Tornaghi e lasciata qualche ora in una cella. Quando matura la decisione di sopprimerla perché è testimone troppo scomoda di quanto è avvenuto, ovvero quando arriva dall'alto l'ordine di esecuzione, 2 uomini della polizia del popolo la caricano sulla moto e procedono all'esecuzione sommaria. Si tratta di 2 persone che la Gianna conosce e delle quali si fida, perché non si spiegherebbe altrimenti un trasporto tanto improbabile con un prigioniero riluttante. Forse le hanno promesso di portarla là dove il Neri è stato eliminato e sepolto. Forse le hanno parlato di un incontro con qualcuno che conosce la fine del capitano. Certo è che la ragazza segue con fiducia i suoi carnefici, perché nella testimonianza di Atos della Torre non si parla di una ragazza trascinata a forza verso il lago, né di urla o colluttazioni giù per il viottolo. Solo quando si accorge di che cosa sta succedendo, Gianna grida. ma è troppo tardi. I due le sparano a bruciapelo e il corpo inerte della giovane si accascia, scivolando pesante nell'acqua. Chi sono i due assassini? Al processo Cechi testimonia che la moto rossa era sempre stata guidata direttamente dal Lince o da un suo uomo, Maurizio Bernasconi, Mirko. Non è indizio sufficiente per costruire un'accusa. Altri parlano di un uomo alto e biondo, con un dito in meno. C'è un uomo della Polizia del Popolo, Ennio Pasquali, nato, con queste caratteristiche. Ma le testimonianze non sono dirette e anche questa pista lascia il tempo che trova. Per l'eliminazione del Neri, come per quella della Gianna, è facile individuare l'ambiente politico-militare da cui vengono mandanti ed esecutori, ma non è possibile identificare i soggetti che materialmente ordinano e operano. Resta il fatto che pochi giorni dopo la liberazione, due protagonisti delle giornate del 27 e 28 aprile a Dongo non ci sono più, né per testimoniare delle pressioni subite, né per raccontare del tesoro. E nessuno sa chi accusare delle esecuzioni che li hanno travolti. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Gianni Oliva, Il tesoro dei vinti, il mistero dell'oro di Dongo. Mondadori, 234 pagine, 20 euro. Le grandi purghe messe in atto da Stalin negli anni 30 colpirono non solo politici e uomini di scienza, ma anche molti musicisti e artisti. È nota la storia tormentata del compositore Shostakovich, la cui musica era considerata pericolosa dal regime. Ma la censura più singolare fu probabilmente quella che colpì Mikhail Bulgakov, l'autore del romanzo Il maestro e Margherita. Fu vittima, sì, umiliata e imbavagliata, ma anche sedotta, in qualche misura soggiogata dal carnefice. Una sindrome di Stoccolma epistolare. Medico al seguito dell'Armata Bianca, cioè zarista, nella guerra civile, Bulgakov era scettico sulla rivoluzione e rivendicava il diritto alla massima libertà espressiva. Stalin aveva apprezzato le sue opere giovanili, ma la censura lo bollò come esemplare di una nuova razza di borghese. Le sue commedie furono tutte bloccate. Ridotto alla fame, si risolse con gesto temerario a scrivere a cuore aperto al leader. Chiese il permesso di espatriare o, in alternativa, un posto nel teatro d'arte moscovita. Un mese dopo, il 18 aprile 1930, Stalin gli telefonò a casa. Gli promise l'assunzione in teatro e un colloquio a tu per tu. Il giorno dopo, Bulgakov fu assunto come aiuto regista, ma l'incontro promesso non avvenne mai e divenne per lui un cruccio. Convinto di aver trovato nel tiranno un protettore, Bulgakov scrisse altre 3 lettere a Stalin, ma non ebbe risposta. Così, per disperazione, si immerse nella stesura del libro che, pubblicato 26 anni dopo la sua morte, lo rese immortale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Dario Biagi, Caro Stalin, firmato Bulgakov, da Focus Storia di aprile.